家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 请欣赏女高音歌唱家安琪拉·乔治乌演唱的著名歌剧中的咏叹调。 Thank you.

Thank you. giunti d'acqua giù.

Seguendo se poco fa qui nel cor mi risonò il mio cor ferito è già e l'indor fu che piano si l'indoro mi lo sarà lo giurai la vincerò si vincerò il tutto ricuserò io l'ingegno aguzzerò alla fin sapiterò e contento resterò sì l'intorno mio sarà lo giurai la Sono qui di me, mi lascio friggere.